simile a Tai Chi. Però Maracaibo. Vediamo se c'è qualcuno qua. Tutti a fare la siesta. Come violeta, insomma, sono come violeta, ma Rico, rico, muore la Serbia, rico. Hola, hola, hola, canale 10, 27075, qualcuno all'ascolto? Sentite la scimmietta? Ciao Marco. Sentite la scimmietta, mi. Cos'è, Yakaman? Io lo chiamo la scimmietta perché sembra quelle scimmiette piccole, quelle bianche e nere. Ehi, ehi, ehi. E allora, che combini? Niente, oggi giornata calma. Mi sono ascoltando musica classica, a dire il vero, in camera. C'avevo un gatto spalmato sopra, sulla spalla, dormendo, sognando. Abbiamo mangiato pesce bianco, merluzzo, buono, peraltro buonissimo, fatto da me. Però giornata, c'è un silenzio di tomba, incredibile, guarda. E anche qua, tutto sarrado, non ve ne sono in giro. Vabbè. La domenica. Però grazie a Dio anche al baracchino vedo che non c'è un'anima in nessun canale. Chi è in giro magari, chi sta facendo ancora la siesta. Oh yeah. Io uscite a pizzù tutti quanti. Io sto pulendo, se vuoi venire a darmi una mano. Ciao Antone, ehi, trovato mi hai. Casomai ci puoi venire tu a dare una mano a me. Ah, sto pulendo tutta la camera. Ah, devo modificare tutta la camera per sapere. Perché viene qua su mio nipote a dormire, quindi, da oggi. E quindi il casino che c'era prima nel laboratorio, ragazzi, mamma mia. L'ho tutto messo a posto, messo in ordine. E adesso ci sta lì. Capito? Sto pulendo, più cucinando, sto facendo lo spezzatino, mi sto ascoltando, dai, già entro al limite dopo quando ho finito. Eia, salutami Simona. D'accordo, te in camera mi sta, non è che stia bene, con questo vento qua, le gambe sono parecchie, io di collo, io quando c'è vento così il collo me lo distrugge, mi alzo dal letto e comincia a sentirmi tutto strano. Ehi, ehi, va bene. A proposito, ma c'è questo vento fuori, ma è un vento caldo o un vento freddo? A me sembra fresco. Cioè, se esco in camicia solo, camicia estiva, mi prende un colpo o non mi prende un colpo, secondo te, Gianni? Ma secondo me, oltre alla camicetta, magari una felpa d'ordinanza già non guasta, dai, alla manco in caso di estrema necessità ti la vuoi. È vento freddo, Marco, è vento freddo, qua c'è fresco. Ciao Claudio, ben entrato, ben sentito. Sì, mi sembrava fresco perché io ho qua uno spiraglio dove passa il cavo per il ricevitore e arrivano, pare che sia un berimento, arrivano dallo spiffero lì dove passa il cavo queste folatine fredde, fresche, quindi ho detto deve essere che non sia caldo, deve essere vento fresco, quindi al limite se dovessi uscire motto, magari una giacca a vento, male non ci sta, no? Giacca a vento, ci vuoi un bottino a motto, non ti preoccupare. Oh, cacchio, l'altro giorno che c'era caldo, c'era un bel caldo l'altro giorno, no? Sai quei giorni caldi. Io in moto ero praticamente in maglietta e invece ho visto uno di zona col giubbotto invernale, mamma che gemmo, si sta morendo solo a guardarlo, mi stava venendo il caldo. Però che oggi ci vuole a fotendini, sono uscito anch'io e molto c'avevo il giubbottino a mezze maniche, i piumi a mezze maniche con la camicia e ci avevo freddo le braccia. Buonasera a tutti, sono entrato a salutarvi e basta. Cos'è quel video che mi hai mandato, Antonio? Hai visto come ho pulito la camera, come ho sistemato la stazione. Adesso va bene, non è un mutinaggio come in tempo prima, no? Quando si è venuto tu. Adesso è perfetto. Poi ho sistemato il letto, eccetera, eccetera. Devi venire qua a dormire Alessia stasera, da oggi in poi. Quindi ho dovuto modificare tutto, questo quattro. Quindi mi sono messo sulla stazione, è tutta ben messa, da una parte. A me non è più tranquilla. Già l'ho visto. Già va bene, Ash, già va bene. Ciao, profe, riprendi, io rimando un attimo in quel link, se mai ci sentiamo dopo. Ehi, ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Ciao anche Antonello. Ma c'è Giomì, ho trovato Marco. Niente, ci stiamo facendo due chiacchiere. Ciao Gianni, saluto lì, non so come che c'eri tu. Ben sentito. Poi oggi rientra anche Gian Piero, anzi dovrebbe essere già rientrato dall'ospedale. Ci hanno tratto dopo a casa, quindi figurati. Ti capisco Antonio. E quindi tuo nipote torna da te, ma da te più che altro perché Giovanna si occupa di Giampiero, no? E poi con la madre forse non va tanto d'accordo, no? Più o meno sì, diciamo che più o meno sì. Sale qua su a dormire è meno tranquilla. Dorme, mangia, fa quello che vuole. C'è la cameretta sua, dalla parte c'ho io tutte le apparecchiature, ho messo la miglia, ho fatto il video a Claudio. E dall'altra parte c'ha tutto, lei c'ha la scrivania, c'ha bella grande dove metterci il computer, la PlayStation che c'ha lei e poi tutto il resto. C'è il televisore grande, quello bianco, e così c'è il posto suo. Io c'ho la parte mia e lei c'ha la parte sua, al centro c'ho il tavolo, che poi vabbè adesso devo controllare ciò che c'è da buttare, lo butto, ciò che non mi serve in pratica. E adesso me lo conservo dentro uno di quegli scatoloni di bottiglioni di bottiglioni di cose che danno di vino, la roba di elettronica. Lo metto dentro quella cassetta lì e così è più ordinato. Poi chi c'è? L'altro giorno poi, dormiggio, già, quel giorno che ho fatto sentire il gatto che russava, quando era ieri? Pochi minuti l'ho seguito a rotta, dormito sul divano, proprio a sasso, e mamma mi sentiva russare dalla camera sua, fatti il conto, col baracchino, il volume al minimo, no? mi fa venire un po' il sonno, così, dai, è come una compagnia, un rumore bianco. E poi, vabbè, il gatto che ti fa le fusa, ti ronfa sopra. Quando ero in campagna all'estate, che me ne entravano dentro la ruota, cazzo, ne avevo 5-6 sopra, là. Cazzo, mi ha risata. Sì, mi sono fatto due orette di slipatina, chiamala slipatina, mi ha drumida, cosa sveglia tutto. Per fortuna c'è la luce, che se no sai quando ti svegli talmente cose che non capisci se notte o giorno. Calma piatta, cazzo se sono di zinco. Io dalla noia, adesso provo a scaricarmi, sto già scaricando qui da Boccaria, voglio vedere la solita americanata di Top Gun, a vedere cosa ne esce. È nuovo, invece io mi sono preparato sulla chiavetta, come lo vuoi chiamare, la disc SD. Con voi, ho trovato Con voi in full HD, volendo anche con la lingua originale e il sottotitolo in italiano, in modo da sentire il modo di parlare. E siccome full HD riesci a intravedere come sono le radio, che tanto sono tutte quelle Cobra dell'epoca, Ceru, che hanno nomi un po' esotici là, no? Eh beh sì, con con una definizione maggiore certi dettagli riesci a vederli meglio, dai. Io, se riesco me lo guardo da stasera, però da presto, perché dura un po', tipo 8:30, 9, metterlo massimo alle 9, metterlo e almeno vedermi un film intero. Bene, chi altri c'è all'ascolto? C'è quel cuocoma nel natalino, vediamo se si è svegliato. No, è presto, oddio, presto, non prestissimo però. È 5:10. Qua ci vorrebbe un bel caffè doppio, triplo, magari con panna, è corretto col grappino lì. Oppure un bel marocchino con cacao. Oh yeah. Sì, vabbè, pizza di Pina, se vi. Marocchino. Addirittura nel bar del quadrato, con la vecchia gestione, no? Quando c'era la vecchia gestione, diciamo, loro facevano questo caffè chiamato mascarpino. Praticamente ti mettevano lo stesso tipo Nutella, poi ti mettevano mascarpone, bello cremosetto dentro, e poi sempre cacao spolverato, e guarda, la prima volta era spettacolare, la prima volta l'ho preso, le altre volte l'ha fatto un po' meno bene, probabilmente non aveva né più gana. Poi sai quel cremoso del mascarpone che si fondeva con la Nutella, col caffè, mamma di turchi. Yeah. Oppure un bel cappuccino di quelli con la crema come si tocca, una spolverata di cacao, una bella pasta, un cornetto alla crema gato. Va bene. Ok, e poi vediamo chi entra, casomai poi devo fare roba al computer, o esco, non lo so, volevo mettere la testa fuori casa, ma alla fine. Per andare dove? Dal cinese, a vedere fesserie, deciderò dopo, dai. Dal cinese sarebbe? Ma tipo muraia, così, ogni volta sempre serve qualcosina, piccole cose. Ah, qualche negozio dici? Cineserie lì a Prasanieta? Sì, tipo calze sottili in cotone, o meglio ancora fantasmini, quelle senza la caviglia, in modo da avere la caviglia bella scoperta, perché le calze mi stanno già ammazzando, proprio non le tollero. Io, per me, in questi giorni di caldo sono riuscito già in sandali, possibilmente in infradito è morto, ma in infradito è pericoloso, quindi in sandali col calcagno, col passante del calcagno, già ci puoi guidare in moto senza strampare. Ascolta, ma che radio stai usando? Credo che sia quella di ieri, il presidente McKinley, col mic originale. Ah, ok. Adesso devo, ogni agate mi tocca anche memorizzare la modulazione per cercare di ricordare per quanto sia possibile. Poi adesso tu ne hai una sciarata, quindi ogni agate ne attacchi una. Sì, poi averne una, averne 10 uguale qua alla fine. Tanto sempre solo in AM, mi potremmo avere un baracchino con un canale AM e andrebbe bene lo stesso. Poi certi li tratto di più, gli apparati certi li tratto di meno. Per esempio il più potente è quello che mi è meno simpatico, il 9009, c'ha 30 watt modulati in AM. Mi pare ne abbiamo una 50 FM e 60 a banda laterale, però è quello meno simpatico, tra virgolette. È il più piccolo di frontalino, però non funziona bene, quasi bene, però non mi ispira più di tanto. Quindi il top qual è? 3009? Vabbè, per le cromature io il 3009. Più semplice, non tutto manopole, non hai menu contro menu. Qua per questo ogni tanto devo ritrovare il manuale anche online e rispolverare le istruzioni, tipo per le memorie, come memorizzare, come cancellare la memoria, eccetera. È tutto menu qua. Com'è il suono di questo microfono che ho, Marco? com'è? Buono, cos'è il 93, 95? No, negativo. È un microfono un po' male, con la capsula dinamica. E quale stai usando, il 2000 o il, come si chiama, Neptune, no, ha un altro nome, l'Uranus. Adesso sto usando l'Uranus con quasi 2 watt. Bien, che dire, io vabbè, ogni baracchino ha timbrica diversa, però ti ascolto bene. Appena prendo il KPO lo piazzo qua, così almeno lo rendiamo più allegro. È un bel apparato l'Uranus, poi quando è uscito, siccome aveva il display LCD, doveva costare anche un bel po', non mi ricordo nemmeno più l'anno, comunque credo inizi 90, no? Metà 90 massimo. Boh, non sono informato su questo, non so cosa dirti. Sì, mi sono scaricato il manuale in inglese, però non la giugana di stare lì a smanettare, lui. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, almeno stacco un attimo e faccio il caffè e poi vediamo il da farsi. Chi poi è andato fuori? È beato lui. Campagna, coso, casa al mare, eccetera. Io non potevo. Ciao Natalì, sei tu? No, sono suo cugino, dimmi. No, il segnale lo vedevo un po' più basso. Non è scesa l'antenna dal vento, la mia? No, no, sono io che sono con 4 watt. Telefono, scusate, adesso inizia a trafilami. Ciao Natalì. Ciao Gianni. Gianni, mi hai sentito? Certo che sì. Certo che sì. Ero io che ero basso, capì? Hai diminuito qualcosa? E allora? Con 4 watt sto uscendo. Va benissimo. Va benissimo. E te credo. Lo sai, hanno avuto la faccia di chiamarmi i vigili del fuoco. A riguardo di che cosa? Dell'antenna. Caspita, le motivazioni? Perché sta oscillando, capito? E allora devo rinforzare il palo. E ho detto sì, devono venire a ancorarlo. E se ne sono andati. E intanto qui ci vai, chi l'hanno chiamati? Oh, yeah. Per carità. Perché il palo oscilla un po', perché è fine, no? Però se lo leghi non oscilla più. Siccome quello dell'ultimo piano mi ha promesso che me lo legava, però dici alla prossima settimana, speriamo domani venga, gli ho mandato un messaggio che sono venuti i vigili del fuoco. Se no, se tu non lo leghi, vengono e te ne buttano giù l'antenna quelli. Ma vabbè, trovo un po' tutto esagerato. Già lo so, purtroppo qua c'è gente cattiva, io te l'ho sempre detto, mi hanno fatto finire all'ospedale, figurati, nelle incazzature mi hanno fatto prendere. Ui, ui, ui. Ma, dai, se questo qua te l'imbraga bene, il problema è già risolto. Sì, quello che abita all'ultimo piano, che fuci da lì, ha detto già me la lega. Me l'ha già detto l'altro giorno, e infatti gli ha mandato un messaggio mia moglie che c'ha il numero e gli ha detto che sono venuti i vigili del fuoco a rinforzare il palo, capito? Solo che perché lui non rispondeva al telefono e ce l'ha spento. Ho capito. Vabbè, dai. Già si risolve. E si risolve sì. E se non più la bascio, e bongo un cavo, un tubo più grosso. Cosa vuoi ti dica? Più che così non posso fare. Olbia. Dato bene una. Marco, ci sei ancora? Stava rispondendo al telefono già. infatti era mezzo incazzato, ha detto mia, adesso inizia la trafida. No, ah, ecco, sì, hai ragione. No, vabbè, mi sono distratto. Niente. Mi sono perso quel passaggio, dai. A Giocavito. Non c'è nessuno, non è entrato nessuno. Stamattina nessuno. Nessuno è entrato. Io c'è già poco fa, è entrato Marco, c'è Antonio D'Alessio che sta sistemando casa, è entrato Claudio a salutare e poi adesso si è entrato tu. Poi il resto tutto tace, e magari esagerare più tardi, dai. E in effetti chi ha potuto uscire se ne è uscito. In effetti siamo sempre in prigione, se tu noti cosa hai su un gobbi dire mamma mia, io sono sempre in prigione, io dico prigione perché non esci di casa, torno a pigliare la macchina perché sennò qui non trovo più parcheggio, sennò me ne andati di ruburu io. Oh, yeah. Un travaglio, un travaglio. Male ho fatto a vendermi il motorino. Ho avuto bisogno di soldi, ma avevo venduto quel motorino che c'avevo, bello, con le ruote grandi. Era uno di quegli Aprilia, ma avevo un cazzo di giama. 50 era mia, 4 tempi, ma bello, cazzo. Camminava, un giro di pulsante, puni e moto, cazzo, erano uno, quella di Meribù, di Ira. Siccome c'è caggiunto, non ha voluto più sapere il motorino. E allora il padre me l'ha venduto. Ehi, tipo scarabeo, aspetta che vado a chiudere una finestra che c'è corrente qua. Rieccomi, sono rientrato. Era proprio uno scarabeo la moto, uno scarabeo blu. Era, c'avevo il portapacchi, cazzo, mi faceva il pesa, burro la cassa di leva e andata la pedana, dice zia. La mano destra me ne ho tagliato. Comodo in città, dai. Molto pratico. Poi nel corso degli anni, figurati, era sempre stato oggetto di furti quel motorino, ragazzi. Ce n'erano parecchi in giro prima. No, io c'avevo la catena anticesuia, la posseggiavo qua, curiavo un chissà cadena, col cazzo la sfacciavano. Vabbè, sì. Se non metti roba del genere lo portavo via. Ma era nuovo, ti giuro, cazzo, guarda, la mano destra era, non consumava nulla, camminava pure un bel, non pareva manco 50 di quanto camminava. Poi io trattavo bene, gli avevo cambiato l'olio e tutto nel motore, capito? Era bellissima quella moto. Chissà quanto costa se vai a comprartela adesso. Sicuramente non te la regalano. Quello è poco ma sicuro. Era veramente di lusso. Quattro tempi poi era, andava con la benzina, no? Normale, come la macchina. Sì, già me lo ricordo. C'è un ragazzo che passa ogni tanto qua, c'è l'arrosso. Non è tu vendi. Allora via la Gellaronga, Buru. E c'avevo un medico, c'avevo il portapacchi dove mettevo il casco, no? Lì ci mettevo le buste della spesa, se dovevo prendere una cassa d'acqua me la mettevo nella pedana e la portavo fino a casa, quindi andavo lì pure io a farmi la spesa. Sì, è comodo perché c'è la pedana bassa, quindi ci potevi caricare la spesa, dai. Rispetto ad altri che invece hanno il telaio che passa lì e sono un po' scomodi. Pratico, sì, molto pratico. Infatti, sono indeciso di pigliarmi da un'altra. Se il gioco ne vale la candela. Perché qua non trovi mai parcheggio, a ogni cosa rida devi pigliare la macchina, già giù di caricamera e peso devo pigliare la macchina, ma è fuzza, già. Il gioco forza la devi prendere. Con la macchina Ma lo sai quanti anni c'ha? Se te lo dico non ci credi. E non c'ha chilometri, mi. Che macchina è? Se si può dire. Un appunto turbo diesel, 1009 turbo diesel è. Cazzo, è del 2001 quella macchina e c'ha 140.000 chilometri, non c'ha chilometri praticamente, è nuovo il motore, poi pagamenti lo trattavo io, prima di entrare a travagliare, cosa facevo, finito o non finito, li facevo tagliando, sempre. Eia, sì, cos'era la seconda serie dell'appunto, giusto? Sì, sì, quella 5 porte, 1009 turbo diesel, la GTD, chi si è motore non finì più, cazzo, e corre buru chi sa macchina, e se le diesel cammina perché c'è la turbina. Eia, io, vabbè, l'avevo... ne avevo comprato una quando è? Nel 2015, l'avevo presa su subito, vai, mi serviva una macchinetta stracobarata, avevo preso la prima serie dell'appunto, una tre porte, la 55, l'avevo pagato 300 euro, l'ho usata un po' e niente, poi me ne sono disfatto, ho pensato di rottamarla, poi ho detto cazzo, per rottamarla magari la regala a qualcuno che ne ha bisogno, e infatti ho trovato un amico che stava cercando una macchina barata, ha detto qua, ti paghi il passaggio e te la porti via. Gli ha cambiato gli ammortizzatori dietro, che erano un po' andati, il cuscinetto dello spingidisco della frizione, e poi cos'era giambato? Forse la batteria, perché era un po' stanca, la gomma era gommata nuova, si è fatto un passaggio e si era legata. E infatti la batteria è nuova perché gliel'ho cambiata a poco, la frizione altrettanto, è a posto la macchina, gli ho fatto la messa a punto da poco, lo stesso olio, filtro naftata, filtro aria, il filtro di dentro, la giambadu, è tutta a posto quella macchina. Ma l'hai presa nuova o usata, Natale? No, l'avevo presa a seconda mano, la Opel, la Biubiliata, chi dice un rappresentante gli serviva una macchina più grande, lui l'ha versata lì e c'aveva 29.000 chilometri quando l'ho presa, praticamente nuova. Ehi, allora, sei andato bene, allora hai trovato un buon usato. E te credo. Era nuova, diciamo. E ho già cercato pure un bado, non cazzo visto, era la macchina mia, ancora sagatta. Anzi, sì, si trova ancora. Era un rappresentante questo qui. Aveva preso una di quelle station wagon, perché aveva avuto un altro figlio e quindi la macchina era troppo piccola, gli serviva una macchina più grande, anche per il suo lavoro, no? Eh beh, certo, ha fatto il passaggio a qualcosa di più grande. No, ti ripeto, quella che avevo preso io, pagata 300 euro, c'era qualche bottarella, poi sulla capota era andata appena appena di trasparente, ma non me ne fottia nuda, cioè, l'avevo comprata per questioni di lavoro, dopodiché per girare la sassa gli girava a piedi. Quando dovevo caricare, avevo qualche serata, qualche matrimonio, caricavo la strumentazione e partivo. Consumava pochissimo, il motore era stato fatto a tipo 80-90.000 km, il proprietario aveva fatto la condizionata testata. L'ho data praticamente che ci aveva 145.000 km. Ti ripeto, a livello motoristico non aveva problemi, a parte questo cuscinetto, lo spingidisco, che vabbè, se ci ha mandato tutto Edo, è già è molto, si dà a livello MacGyver, veramente. si è fatto il tuo head, ci ha cambiato l'ammortizzatore. No, sono contento che ho fatto contento un amico, dai, perché credo che per rottamarla si spenda intorno agli 80 e 100 euro, se non sbaglio, bro. E di più di 100 e qualcosa si spende per rottamarla. La mia è giù di carrozzeria perché me l'hanno rovinata qua in parcheggio, senza contare gli iscritti, pure martellate sulla capota me l'hanno imbigliata, bastardi. Cazzo, me l'hanno tutta graffiata, tutta... Ui, no, guarda, mi è arrivata a beffa. Di carrozzeria è giù, però di meccanica è a posto. Questi teppisti. Adesso, vediamo se Marco è ancora lì. Marco, ci sei? E magari è andato anche a farsi il caffè, dice dove doveva farsi il caffè. Caffè lungo, vicio, deve essere. All'americana. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, avanti che vuole entrare. Oggi è giornata moscia, non c'è propagazione, neanche nelle altre bande c'è nessuno. Dimmi tu, allora ci ho ricevuto pure, intanto mi ha giudicato il bien. Andrà bene Meda. E così siamo a posto. Ehi, Anatoli, dai. Magari tengo acceso, abbasso il volume. Casomai ci sentiamo dopo, ok? Dai, a più tardi se coincide. Va bene Gianni, dai, ti lascio il tuo affare. Anche io abbasso un po' il volume, se entra qualcuno rimanga in ascolto, dai, ci sentiamo alle plus. Ehi, dai, buon procedimento. Tornata, sì. Il caffè è caldo, me lo bevo più fresco. Vabbè, benissimo. Certo che oggi è una giornata strana, è bella da relax proprio. Sempre un silenzio di tomba fuori, tutto tranquillo, tutto bello, niente macchine, moto. Anche qua. Ho scaricato il film. Si vede che è ripreso con la telecamera. L'audio è panoramico, cioè l'audio d'ambiente, ma già mi sembra comprensibile, dai. Più tardi gli do uno sguardo, anche se americanata. E ripreso così in sala è brutto, veramente brutto. Poi quando c'è quell'audio green bomba toglie il gusto del film. Meglio aspettare il solito quando uscirà in Blu-ray. Qualcuno fa il Blu-ray RIP a 1080p, tanto ce n'è di roba ancora da guardare a voglia. Vabbè, giusto per passare l'ora. No, sono andato su Cineblog, l'ho visto che c'era, me lo sono scaricato direttamente piuttosto che guardare in streaming. A meno che non lo facciano in streaming su qualche piattaforma prima ancora di farlo in Blu-ray, è tutto a gerarchia certe volte. Come era Sky una volta, non c'era Sky prima fila che era per la caste alte, capito? Poi c'era i film sempre a pagamento, però prima visione, però per i più. Tutte le classi sociali, no? Più pagavi, più vedevi i film in anticipo rispetto agli altri. No, ultimamente non stavo più guardando niente, però avevo scaricato un sacco di roba quest'inverno, però. Poi ero talmente sovraesposto, ho detto, non guardo più niente, insomma. Vabbè, oggi è domenica, in qualche maniera ci vuole, insomma, passeremo, dai, vediamo l'americanata, il Maverick 2.0, cosa combina. Ehi, ma l'attrice del primo film non c'è più, no? Perché sarebbe più grande in proporzione, forse troppo, per non dire vecchia. No, penso di no, penso che non ci sia, adesso McGinley, come ti cazzo, non mi ricordo il nome. Non credo che ci sia. Sembrava più giovane Tom Cruise, cioè in proporzione credo che nel primo film Tom Cruise fosse molto più giovane di lei. Nemmeno io ricordo il nome. Ok, va bene. Io poi farò qualcosina. Devo masterizzare un paio di mondezza da conservare. E così impiego un po' di tempo. Mi sa che sono l'unico, io faccio tutto in doppia coppia, hard disk e masterizzato, perché l'hard disk basta un urto, oppure così, dall'oggi al domani, lo accendi e non si accende, come già che è successo con uno, tutto perso, vabbè, niente di grave, ma... A me è successo con un hard disk da un tera, da giorno all'altro, era pieno di roba, cazzo c'avevo un sacco di roba. Accendo, boh, è sparito l'hard disk. Qua se ci penso mi sale la carogna. Adesso è probabile che sia partita la scheda, quella che sta sotto. Infatti volevo dargli l'ultima chance. Se la trovavo su eBay usata, la scheda da cambiare, perché in questi barracuda hanno spesso questi problemi qua, soprattutto quella determinata serie, quindi magari è probabile che se gli cambio la scheda, lo stampato che c'è sotto l'hard disk, magari riesco a recuperare i dati, perché a livello meccanico gira, sicuramente se bruciate qualche cosa ai givi, perché ho notato che scalda parecchio, appena attaccato, quindi sicuramente c'è qualche chip che se n'è andato. Sì, perché può essere o il controller che c'è dentro, la parte elettronica oppure l'hard disk. Da me invece fa un clack brutto all'avvio, clack non viene proprio visto, quello è secondo me una rottura meccanica. Quindi amen, ma più che altro a me interessano le foto di famiglia, le cose di famiglia vecchie, là, foto più che altro, vecchie diapositive passate in digitale, e vabbè, manco me ne ricordo più, era un Lacie, così si pronuncia Lacie, poi dentro ci sono altri dischi, Western Digital, non so nemmeno. Quando sente quel tac tac tac la testina, sicuramente è andata la testina. No, qua questo video gira bene, sicuramente la scheda del controller che è andata. Vabbè, se riesco a recuperare i dati già mi fa piacere, anche perché c'era un sacco di roba a cui tenevo, e ciccia. Me l'aveva fatto anche un'altra volta, sempre un hard disk barracuda della Seagate, quello era da 500 giga, anni fa, cazzo, c'avevo un sacco di lavori dentro, filmati, video che mi avevo commissionato, uff, anche quello se n'è andato, arrivederci, però lì era saltata, lì era un problema di testina, perché ho provato a cambiare la scheda di controllo e non ho risolto nulla, e mi la giubilata in culo, come si suol dire. Ma se questi hard disk erano interni o esterni? Hard disk classico, hard disk da 3,5, da PC fisso, classico hard disk grande. Ah vabbè, interni, dico, non USB, non periferiche esterne, ecco. No, negativo, no, proprio il classico disco C, poi CD, adesso, cazzo, proprio mullato, dal giorno, dalla mattina alla sera, cazzo, un crepo, caro, un nervoso mal di stomaco, non ti dico. Sì, via. Poi io per la masterizzazione, che ormai è obsoleta, però certe volte è meglio avere la doppia copia di certe cose magari che vuoi conservare, e devo provare ancora questi DVD RAM che sono riscrivibili, sono strani, hanno una specie di traccia messi in cose elicoidali, come a spirale, i cluster, non so come si chiamino, sono un bel strani. C'ha la capienza di un DVD, adesso non mi ricordo se è un monostratto o doppio stratto, però la parte negativa, sì, li puoi riscrivere un'infinità di volte, puoi aggiungere dati o toglierli come fosse un hard disk, però c'hanno la lentezza di scrittura di un floppy. Ma quando lavoravo ancora a Telegira li usavamo parecchi, avevamo praticamente, registravamo con i DVD Panasonic che utilizzavamo i RAM, e quindi andavano come il pane in televisione, no, andavano bene, e poi c'erano anche addirittura quelli double face, no? Quelli che li potevi scrivere da una parte all'altra. Della Panasonic, chiaramente, rimanevano dorati. Anche quelli già ne ho visto di masterizzazione. Sì, la masterizzazione poi è più lenta rispetto al classico disco DVD meno R più R, dai. Sì, il RAM è, infatti, anche il costo è completamente diverso. Sì, poi vabbè. Ho provato questo SSD esterno della SanDisk, certo veloce, coso, più leggero, tascabilissimo, sembra un portachiavi, ho preso non grande, 500 giga, perché sennò il costo cominciava a essere è ancora proibitivo con le mie tasche. Cioè io non sono professionista, l'uso per metterci due cagate, quindi ho preso il modello anche più lento, come però è già bello fluido e poi non ha problemi di meccanica, se cade non si rompe. Poi vabbè, come tutte le cose elettroniche, anche quello, basta che un componentino parta e si rompe tutto o quasi. Bene Gianni, io stacco e poi senza qualcuno ascolto anche dall'altra stanza con il ricevitore, e se no vabbè, pazienza, ci sentiamo, ciao a tutti anche alle ascoltoni, ciao. Sì, anche io mi abbasso il volume, la lascio accesa, poi nel caso dovesse entrare qualcuno, casomai o ci sentiamo più tardi o la prossima, vabbè. Buona serata. Ciao a tutti, ciao. Gianni. Oi. Hai sentito niente? C'è un dormitorio, ecco, un dormitorio di gatti. Russano proprio saporitamente, beati loro che non c'hanno preoccupazioni. Oh, sono i padroni di casa quelli. Serviti e riveriti. Proprio. Se dovessi rincarnarmi in qualcosa vorrei rinascere gatto. Domestico però, eh. Oh, yeah. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Hola, hola, hola. Tú tienes el OCA, tienes OCA, pero no te compro, no te compro como que tiene, no sé si es que tiene mucho eco y el ruido del canal no te deja, no deja escucharte. Mira, a ver ahora. Attenzione, tutto bella, avanti. Che è, avanti? Gianni sono. Oh Gianni, mi ascolti, ciao. Sì che ti ascolto. Rientro da Alghero. Non ho capito chi sei, perché sto usando un altro apparecchio, non ho capito chi sei. Franco sono Gianni, anche io non ti stavo riconoscendo con questo apparecchio. Franco, di Sassari però, sono di questa greca, rientrando dal ghetto, vai. Sì, Fra, ti ascolto abbastanza bene, dai, Fra. Io stavo chiudendo per andare a portarci giù il cane, dai. Comunque, se sei a tutto bella, dai, ti faccio un po' di compagnia. Sto provando la prima che ho fatto vedere qua, non stai facendo bene? Sì, sì, sì, c'hai anche quel bibibibibi. Ecco, l'ho tolto adesso? No, potevi anche lasciarlo, dai. Io come sto andando? Sono col 3009, con quel microfono nuovo, il KPO, quello che, diciamo, il microfono nuovo amplificato, quello olandese, per intenderci. No, no, ti ascolto benissimo, non vedo segnale, ma sicuramente è buono perché la radio è bella pulita, chiara. Ci sente l'amplificazione? Guarda, ti ascolto veramente bene. Non è quelli che si portano appresso rumori, è perfetto. Ecco, guarda, questo qui c'è il sostituto dell'apparecchio che non funziona più. Adesso mi uso il 3009 perché non ero da tanto che c'è da tanto. Non l'ho mai usato, l'ho ordinato e ce l'avevo fermo qui. Adesso che ho fatto questo abbinamento, vediamo un po' come va. Là. No, io ti ascolto bene, sento un bip, anche tu c'hai il bip, va bene. Non è molto... è più forte la radio del bip, figurati. Si sente il bip? Io non ho mai sentito il bip. Da dove senti questo bip? Non ce l'hai in questo microfono. Ce l'hai però, ce l'hai nella radio. Boh. Sembra il bip del Pluto, dai. Del Samurai. Ma lo sai che non lo sapevo? Ma non ti puoi ascoltare con un'altra radio. Lo sto facendo. Non è molto... A meno che non sia nel microfono, non lo so, ma non credo. Non lo so, boh. Credo che sia uguale a quello che sto usando io adesso, come bip, più o meno il tono è quello. Ora mi ascolto. Ehi, c'è, è vero. Non è che ti dico la fesseria, no? Se ti dico la fesseria, no, non è fastidioso, è un bel bip. Ehi, è leggero, leggero, dai. Sì. Adesso sono un po' zona bassa, mi ascolti sempre bene. Sempre bene, sempre perfettamente. Bella porcheria, però. C'è Santiago 8, là. E qui ancora è buono, dai. Guarda, l'antenna ce l'ho dietro la ruota di scorta, capito? Non è sul tetto. Ma l'aiutino? No, no, questo è liscio. Va bene, dai. Quanti watt dà con l'apparecchio? Ma in AM, credo oltre qui al massimo. Allora, è bella la radio, non so cosa stai usando come microfono, è bellissima la radio e anche l'apparecchio rende bene. L'apparecchio è Super Galaxy, quello che è tipo Samurai, però questo c'è con qualche watt in più, infatti dietro c'è il dissipatore. E il microfono è l'M95, là, quello della chirofata lì. Si sente bene, dai. È un bel microfono, ti fai sentire. Manetta, Mike Gill è... il microfono, tutta la tavoletta. Ah, sembri qua, te lo sto dicendo, sta arrivando Brisbane, dove sei adesso? Adesso sono, diciamo, in direzione, sono così, più o meno, diciamo, Monte Oro, vai. Così, ho capito, sta arrivando benissimo comunque. Ho stato chiamato anche dall'Alghero, ma non mi sentiva nessuno. Sentivo un bip, non so se fosse il tuo, però a me non mi sentiva nessuno. Ma c'era Trinità da Gultu, stavo parlando con Trinità da Gultu. Ma non arriva, c'è Alghero, non arriva. Neanche a casa li sento, eh. Li ascolta Carlo perché c'è una bella zona lui, zona alta. Segnale 8 Radio 5 qua a Sorso. Ciao a tutti. E beh, Frank. Capo, dai. Stavo passando da qua, ero sul 4 poco fa. Stavo andando a spegnere la radio, sono passato qua e vi ho sentito a voi due. Capo, Franco, buonasera. Sì, sto rientrando da Alghero. Un giorno è volato come giorno di fine, di riposo, è volato come niente. Capo, arrivi bene qua, dai, 8 e 5, 8 di segnale e 5 di radio, buono. Oh, devo mollarvi che stanno chiamando, ci sentiamo. Ciao, buona carica quando l'ho fatta. Ehi, ciao Fra. Oh, Franco di Sassari, avanti, prendi tu. Adesso, praticamente, adesso ti vedo, sicuramente. Cappa, arrivo bene? Sì, sì, intanto saluto Franco, grazie anche per i controlli che mi ha dato, un abbraccio da parte mia. E buona carica, buon tutto, vai, alle prossimine. Adesso sto di nuovo scendendo, però tra un po' mi perdi, oddio, mi abbasserò un po'. Sei solo, Fra? No, sono con la 50. Ah, eravate a passeggio allora. Ho capito. E l'antenna sempre la REM stai usando? La Turbo 2001? Sì, quella che mi aveva dato Eugenio. Caba caba. No, già va bene, già va bene. Rende bene, il stazionale molte te le dà. Beh, ho anche sotto sedile un piccolo accordatore, il TM999, ma che sia, boh. Uso quello, ma già non ne avevo, No, perché a me non me ne dà niente, proprio si muove appena appena l'ago. Ma come la usi tu l'antenna? Sulla magnetica? K. Io ce l'ho una faffa che diciamo esce dietro la ruota di scorta della macchina. Ho fatto uscire una staffa a fianco alla gomma e lì ho attaccato l'antenna. Quindi diciamo, non dico, ma forse si mette l'antenna e coperta dalla macchina e poi la punta esce su. Ma rende benissimo, Fra, rende lo stesso, va. Non ti posso dire nulla perché va bene. Sì, sì, beh, bisogna mai confrontarla con qualche altra macchina e vedere a parità di posizione come sta rendendo. Perché io mi ricordo che una volta ho messo la magnetica sopra la capota e rendeva meglio di quella che era dietro la ruota di scorta. E beh, c'ha più piano riflettente nella capota, vabbè. Comunque già va bene, va benissimo, ottimo per la truppa. Adesso sono davanti a Mara, quindi sono all'ingresso di Predanieta, dai. Ehi, ehi, mi sentirai sempre più forte. No, no, ripeto, ti ascoltavo benissimo anche prima, come adesso, uguale. Cappagatto. Va bene, dai. Mi fa piacere che questo apparecchio stia andando bene, dai. Questo è 3009, non lo stavo mai usando, ce l'avevo messo nell'ultimo ripiano, non lo usavo mai, usavo sempre gli altri, adesso un po' ogni tanto uso questo qua. Hai numerato la scelta, però io lo stai usando, il Cobra mi sembra, che quello è una bomba. Il Cobra, schicchia forte. Cavolo, caspita. E poi c'è anche l'Intec, la stazione base. No, ma mi sembra che Cobra è uno dei più potenti, c'è anche una bella radio, proprio potente. Perché l'ho messo con l'Eco Master Plus, quello che avevo nel Galaxy. No, no, esce bene, complimenti. Poi vabbè, anche la zona è invidiabile. È la zona del mare libera, infatti a Trinità d'Agurto arrivavo 9.5. Io sicuramente neanche li sento. Cavagava. Vabbè. Andava Fra, dai, adesso ti lascio che vado a portare il cane, intanto sei arrivato, ti fa una chiacchierata in macchina e via. Dai, grazie per la compagnia, dai, un abbraccio, alle prossime, saluta anche a Tyson, dai. Tyson, poverino, l'ho dovuto portare dal veterinario l'altro giorno, che è entrato fuori a sacchi dentro il naso. Adesso è il periodo, orecchie, naso, e te ne sei accorto subito? Sì, perché stava starnutendo ripetutamente, l'ho immaginato subito che era quello. Mi ricordo il mio, quando c'era nelle orecchie, proprio le sbatteva sempre una parte e poi veniva con le orecchie e si strofinava nei piedi, ti faceva capire che aveva dolore. Dai, ti lascio, di nuovo un abbraccio e buona serata, buon tutto, dai, alle prossime. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, Fra. Saluta la tua 50. Ciao Gianni, saluti. Vergognosa. Sul canale 10 cambio ora canale 10, c'è nessuno? Ora chi è? Carlo. Ehi, ciao Carlo, buonasera. Cosa mi racconti di bene? Niente, sono qua, sono messo alla radio, sono da solo stanotte. Io ho acceso il computer perché mi sono ricordato che c'è un bollo da pagare che scadeva da aprile e quindi c'è tutto maggio per poterlo pagare senza nessuna sanzione, dai, anche se sono bassissime. Però se qualcuno mi diceva controlla, perché a volte ci sono regioni che non lo stanno più facendo pagare, e non mi sembra la Sardegna una di quelle. Guarda, su quello mi sono ricordato anche io che c'avevo un bollo, te lo pago domani, cioè io ce l'ho a gennaio, ogni gennaio ce l'ho, e me l'ho dimenticato, me l'ha proprio sfuggito. E guardando così i documenti della macchina non mi trovavo il bollo, guardo, ahia, non l'ho pagato. Io lo stesso, gli altri anni me ne dimenticavo, adesso mi ho messo le note sul cellulare, per cui quando mi dimentico qualcosa ogni tanto vado là e c'è a vedere se c'avevo scadenze, ed è per quello che me ne sono accorto. Vabbè, non saranno questi 5 euro che ci metteranno in più. Sì, ma in passato andavo al tabacchino, solo che l'ultima volta mi ricordo che l'avevo pagato col PC online. Comunque sia, il tabacchino ti prende le commissioni, invece pagato in quel modo non paghi niente. Lo so. Purtroppo a me mi tocca andare al tabacchino perché non riesco a farlo col PC. Sì, chi non può ovviamente è costretto ad andare al tabacchino, ma io sino a poco tempo fa li ho sempre pagati lì in tabaccheria, capito? Bolli, anche qualche bolletta ogni tanto. Però almeno quelle cose, se riesco a pagarmele col computer, capito, col cellulare a volte, è la cosa migliore, perché non ti paghi quelle commissioni, anche se sono basse, però insomma paga 1,50 euro qua, 2 euro e là, 1,80, insomma sempre quattrini sono. Io lo credo, sempre sul riesco, sembra così, ma gli spiccioli contano a volte più dei grossi, perché uno spicciolo oggi, uno spicciolo domani è un casino, e purtroppo è così, cazzo. E vabbè, io mi pago tutto nel tabacchino, mi pago sia bollette, sia tutto lì mi pago. Tanto, faccio più cose in fretta che andare alle poste anche. Sì, quello poco ma sicuro, le poste sono, per carità, ogni volta che ci vai ti bruci un'ora e mezza, se ti basta pure. Sì, se basta, infatti se basta. Sì, se no, quando